24 mattino. Le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Per i vostri messaggi il 349-238-6666. Parliamo di economia. Soldi e dintorni. Eccoci qui con Deborah Rosciani. Ciao Deborah. Ciao, buona giornata a tutti. Allora, siccome io ti ascolto. Ah, sì? So che ti ascolta a Salvadanaio, anche a Salvadanaio. Ah, ma questo mi fa molto onore. So che ieri già hai anticipato il tema di oggi. Esatto, ho stimolato un po' i nostri ascoltatori su un tema, sul tema del quale avremmo voluto parlare questa mattina, perché il tema di oggi non è un argomento che, come dire, si conclude con una ricetta, con un suggerimento di comportamento ai nostri ascoltatori, una guida pratica come spesso ci capita di fornire. È un tema però molto sentito, che puntualmente torna a far discutere, in particolare in questo momento in cui registriamo un netto calo dei consumi. Ieri dunque a Salvadanaio abbiamo invitato i nostri ascoltatori a dirci che cosa pensassero sull'apertura domenicale dei negozi. Tu cosa ne pensi? Non ti distrarre. Stai già controllando se gli ascoltatori scrivono, immagino. Certo. L'apertura domenicale. Beh, ma io soprattutto i negozi, nel senso supermercati, ipermercati, quelli già c'è e ci sono. Esattamente. E spesso vado a fare la spesa. E quindi insomma, perché sai che vado io, che vai tu naturalmente, quindi tu preferisci fare la spesa e ti piace farla di domenica. L'orientamento dei consumatori, soprattutto quelli che ieri ci hanno risposto a questo piccolo sondaggio che abbiamo lanciato, è lo stesso se ovviamente ci riferiamo alle donne, alle mamme, che avrebbero una grande necessità di poter bazzicare per i negozi la domenica. In termini generali però, come dire, poi la questione si scontra con altri con altre problematiche che adesso ci faremo spiegare anche proprio dai commercianti. Costante per Vice direttore generale di Confcommercio, benvenuto a Soldi e Dintorni. Grazie, grazie a voi e saluti a tutti. E poi sentiremo anche le ragioni dei consumatori, i pro, credo, aperture domenicali. Rosario Trefiletti è presidente di Federconsumatori, buongiorno e benvenuto anche lei. Buongiorno a tutti voi. Allora, secondo un'analisi di Federdistribuzione dalla quale abbiamo attinto, se gli italiani potessero effettuare sempre la spesa la domenica o nei giorni festivi, ci sarebbe un beneficio notevole sui consumi delle famiglie e sulla marcia delle aziende, dell'azienda Italia. Gli acquisti aumenterebbero del 2%, il prodotto interno lordo potrebbe così beneficiare di un effetto positivo valutabile di almeno mezzo punto percentuale. Cominciamo con Trefiletti, quali sono le ragioni dei consumatori su questo tema? Beh, è presto detto, quando si può avere a disposizione un servizio maggiormente esteso nel tempo e quindi avere una possibilità in più di poter acquistare quello che appunto si ha bisogno, ma a volte anche si acquista naturalmente, perché si possono anche fare, diciamo così, anche quattro passi in centro o quattro passi per le vie commerciali, è sempre anche un piacere vedere che le strade sono vive, insomma, e l'apertura dei negozi appartiene anche a questa questione. Cioè, quindi noi pensiamo sempre che un'estensione del tempo della possibilità di avere un servizio sia di per sé un fatto positivo. Poi se questo si traduce, io già dico che migliora la qualità del servizio, ma se questo poi si traduce in un aumento delle vendite, questo francamente lo collego di più al potere d'acquisto più che alla possibilità di acquisto, e quindi può essere anche giusta l'analisi di Federdistribuzione, però voglio dire, questo, ripeto, lo collegherei più ad altri parametri. Beh, economici. Certo, diciamo che una cosa è affrontare la questione in termini generali, un conto invece è parlare di questo argomento in un momento, in una congiuntura particolare come questa, per cui bisognerebbe capire anche se in un momento come questo l'apertura dei negozi la domenica potrebbe essere un fattore appunto di rilancio dei consumi e quindi anche dell'economia in generale. Non ci dimentichiamo però che soprattutto per i piccoli, per i dettaglianti, l'apertura della domenica del negozio comporta anche un costo, e molto spesso a favore del possibile beneficio il gioco non vale la candela. Costante Persiani, ovviamente credo che questo possa essere il vostro punto di vista, potrebbe essere utile o no in un momento come questo proporre l'apertura del negozio la domenica anche per favorire il rilancio dell'economia? Ma guardi, io credo che la questione sia anche abbastanza dovuta a scarsa conoscenza un pochino delle regole, perché innanzitutto il rapporto di Federdistribuzione andrebbe letto in tutti i dettagli, perché poi fa dei distinguo e quant'altro, ma in sintesi è questo il problema. Noi possiamo parlare di un qualcosa come l'apertura delle domeniche che ci interessa interessa, però dobbiamo anche dire che stiamo parlando di un qualcosa che abbiamo già e abbiamo già abbondantemente, nel senso che i servizi commerciali, io credo che almeno a livello italiano, e su questo l'Unione Europea si sta già cominciando ad occupare, siano all'avanguardia, cosa che fino a 20 anni fa non avrei potuto dire, ma io credo che adesso siano già i negozi aperti alla domenica. Il problema forse è questo, che ogni regione ha fatto la sua regolamentazione. Infatti, dopo la riforma del titolo V. E comunque la scelta ultima spetta ai comuni, anche se la regione disciplina in termini generali. Ai comuni sulla base di direttive regionali. E ora a questo punto non ci sono più oggettivamente grossi limiti, perché alcune regioni, poi ogni regione si è adeguata un pochino alle sue esigenze, alle esigenze della propria popolazione, quindi oggettivamente sono normative che evolvono continuamente, ma io le posso dire che le regioni che hanno i maggiori, diciamo, picchi anche come sviluppo economico, sono già attrezzate, nel senso che tutti i centri storici importanti hanno l'apertura tutto l'anno di grandi e piccoli. Il problema è che poi se non la fanno in tutto l'arco orario è perché non ce la fanno a tenerla, grandi e piccoli. E oltretutto, per quanto riguarda invece i piccoli, in alcune regioni anche fuori dai centri storici hanno tutto l'anno. Anche dove invece non si è né località turistiche né centri storici, perché il problema è che queste aperture sono fatte soprattutto a favore del turismo, in ogni caso esatto, in molte regioni siamo arrivati comunque ad aperture generalizzate medie di 31 domeniche su 52, che penso sia uno spettro sufficiente, e in altre non scendiamo sotto le 20-21, questo per piccoli e grandi, perché ripeto, in molte regioni addirittura i negozi di vicinato, faccio l'esempio della Lombardia, ma è solo un esempio, sono attualmente già liberi tutto l'anno. Il problema sa qual è? Che purtroppo, arrivati ad un certo livello di servizio, aumentarlo purtroppo, questo dico, addirittura, purtroppo addirittura aumenta solo i costi, perché non aumenta i volumi di acquisto. Il tema della saturazione. E quindi a questo punto mi piacerebbe tanto che il problema della crisi fosse solo lì. Il problema è far aumentare i consumi, dando alla gente i mezzi per poter comunque vivere in un certo modo. Sentiamo allora adesso, sì, tra un attimo, anche i consumatori cosa ne pensano, però siccome giustamente io ieri ho lanciato un piccolo sondaggio che ovviamente non ha nessun valore statistico, ma era così un modo per invitare gli ascoltatori a stimolare anche la nostra trasmissione, vi leggo un po' cosa ne pensano. Ci hanno scritto molte mamme, molte donne che ovviamente si dichiarano assolutamente favorevoli all'apertura della domenica. Non bisognerebbe, ci ha scritto Barbara, lottare con l'orologio per fare shopping fra ufficio e figli. Un altro ascoltatore, Marco, ci ha scritto: la soluzione migliore è lasciare completa libertà ai commercianti, l'unico modo per aumentare la concorrenza e diminuire i prezzi. Occorre però intensificare i controlli per reprimere gli abusi e i comportamenti non corretti. È un salto culturale passare da una società in cui per fare occorre chiedere il permesso ad una società in cui per fare non servono permessi ma solo rispettare le regole. Rosario Trefiletti, ha sentito? Sì, ho sentito, mi sembra assolutamente condivisibile le cose che sono state dette dai cittadini che hanno chiamato. E quindi io sono anche, non solo per liberalizzare ciò, naturalmente previo accordo poi con i dipendenti, con le loro associazioni, con i sindacati, perché è chiaro che bisogna anche rispettare queste regole. E poi aggiungo che addirittura noi siamo per la liberalizzazione dei saldi, quindi proprio anche infatti per evitare... poi lì volevo arrivare, sì, l'altro grande tema di discussione, sì. Esattamente, anche perché poi all'interno di quello che veniva denunciato, la violazione delle regole, c'è anche il fatto che le furbizie attorno alla questione dei saldi portano anche a una competitività, diciamo così, sbagliata, una competitività furba, e quindi che può portare nocumento ad alcuni negozianti rispetto ad altri. Cosa intende per competitività furba? Beh, sì, che si fanno, alcuni fanno i saldi quando per esempio altri aspettano, perché sono rispettosi delle regole e aspettano la giornata in cui l'ente locale ha determinato l'inizio dei saldi, ed alcuni invece lo fanno precedentemente, e quindi possono appunto mettere in falsa competizione e fanno della concorrenza sleale ad altri negozianti. È vero, questa ha ragione, però questo è successo particolarmente quest'anno tra i filetti, in cui si immaginava per esempio si verificasse un periodo natalizio molto molto negativo per quello che riguarda i consumi, quindi come dire, per non far passare proprio Natale triste a tutti, molti commercianti si sono mossi con largo anticipo proprio abbassando i prezzi, ma questo, perché questo è concorrenza sleale? Questo avrebbe dovuto avvenire, noi l'abbiamo chiesto, liberalizzando i saldi per tutti i negozianti, quindi che non ci fossero furbizie l'un contro l'altro armati. Questa era la cosa che avevamo chiesto e non si è verificato. Poi però vorrei aggiungere, questa me la deve fare dire per forza, che io sono rimasto un po' irritato delle polemiche che ci sono state nei nostri confronti quando abbiamo detto guardate che le cose non vanno bene, vi sarà una contrazione dei consumi, e siamo stati accusati di catastrofismo proprio dalla Confcommercio, e non si riesce, ancora oggi io non riesco a capire per quali motivi non si voleva in buona sostanza asserire la realtà delle cose. Trefiletti, giriamo questa sua considerazione a Persiani, io tra l'altro devo chiudere fra 15 secondi, adesso credo che quella ormai sia acqua passata, ragioniamo anche su quello che abbiamo, su come questa situazione di difficoltà possa essere superata. Persiani di Confcommercio, lascio a lei i 30 secondi anche di replica a Rosario Trefiletti. Cosa può fare il mondo del commercio per rilanciare i consumi in questo momento? Ci dia la ricetta concreta per i consumatori. Per chiudere sugli orari direi che siamo piuttosto avanti, e credo che questo lo siamo in Europa. Questo purtroppo non è la ricetta. La ricetta è mettere i consumatori, i cittadini nelle condizioni di comprare. La ricetta è anche quella, e lo ribadisco, di non fare del terrorismo quando non c'è bisogno, perché allora in quel momento i consumi non li incentivi di certo, anche se il consumo ci fosse avallato dai presupposti economici, non lo incentiveresti. La ringrazio, mi scusi, devo proprio chiudere perché siamo in ritardo. Allora magari ci ritorniamo e vi rimetto insieme, quindi vi lascio concludere la discussione. Niente più terrorismo nell'ambito del commercio, Alessandro. Benissimo, alle 12. Alle 12 rapidamente, domani c'è il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi a Milano, noi torniamo a parlare di concorrenza tra banche. Le 8:33 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. Allo studio del G8 c'è anche l'ipotesi di nazionalizzare le banche, lo ha detto il presidente del Consiglio Berlusconi, aggiungendo però che il sistema del credito italiano è solido e che finora non sono state avanzate richieste di ricapitalizzazione. Stamattina il Consiglio dei Ministri con l'ordine del giorno del decreto antistupri. Niente più arresti domiciliari, ma carcere per chi è accusato di violenza sessuale. Inasprite le pene fino all'ergastolo in caso di morte della vittima di violenza. Possibile anche la regolamentazione delle ronde di cittadini privati al servizio dei sindaci. Perché proprio io? Si intitola così una lettera che Cesare Battisti, il terrorista condannato all'ergastolo per 4 omicidi per il quale l'Italia chiede l'estradizione, ha inviato al Senato brasiliano. Battisti ripete di non essere responsabile degli omicidi e si chiede se non sia giunta l'ora che in Italia mostri il suo lato cristiano, per il quale il perdono è un atto di nobiltà. Infine il calcio, con la Coppa UEFA la Fiorentina perde in casa 1-0 con l'Ajax all'andata dei sedicesimi di finale, 2-2 invece per l'Udinese in Polonia contro il Lech Poznan. Era l'ultima notizia, ora il commento, come di consueto, del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio alle dichiarazioni del presidente Berlusconi sulle banche. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Con una certa leggerezza, e non è la prima volta, Silvio Berlusconi ha parlato della possibilità che anche le banche possano essere nazionalizzate. È stato come sempre interpretato male, ha precisato poi che le nostre sono solide, vanno meglio delle altre, le tedesche, le inglesi in particolare, dove lo Stato è entrato di forza nel capitale per salvarle. È vero, quella che soffre di più in Italia è Unicredit, ieri sotto un euro, al valore che aveva il vecchio credito italiano 20 anni fa, ma che ha i mezzi, tutti i mezzi, per superare la crisi. L'ingresso dello Stato negli istituti non sarebbe uno scandalo se fosse limitato anche nel tempo e indirizzato a irrobustire i capitali e favorire gli impieghi verso le aziende. I depositanti, come sapete, sono già ampiamente garantiti e sono più garantiti da noi che altrove. Ma perché allora si è perso tanto tempo nel varare i cosiddetti Tremonti Bond, che sono un aiuto del contribuente agli azionisti degli istituti? proviamo prima con quelli, poi semmai si tenteranno altre strade più radicali. Di certo non abbiamo nostalgia dei tempi in cui la politica spadroneggiava nelle banche e il credito non affluiva né copioso né a buon mercato all'economia. Anche perché i banchieri alla Mattioli, alla Cuccia, alla Cingano, che sarebbero inorriditi davanti ai prodotti derivati e le stock option, sono diventati un'autentica rarità. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli, che ritroveremo lunedì mattina. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come detto e come avete sentito, oggi il Consiglio dei Ministri, tra l'altro in programma alle 8.30, quindi inizierà a momenti, discuterà del decreto legge sicurezza, soprattutto alla luce degli ultimi episodi di violenza sessuale. Si parla anche dell'ipotesi di inserire, di regolamentare le ronde, che sono già in un disegno di legge alla Camera, ma il dibattito è se anticiparle in questo decreto di oggi. Ronde che sono già una realtà in diverse città italiane. Io per esempio saluto il sindaco di Parma, Pietro Vignali. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Sindaco dal 2007. A Parma ci sono le ronde, come funzionano, da chi sono composte e cosa fanno? Ma guardi, è una specie di ronde, se così possiamo definirle, nel senso che abbiamo fatto una convenzione con i carabinieri e i finanzieri in pensione, che sono riuniti in un'associazione, i quali presidiano alcuni parchi cittadini, e quindi abbiamo scelto di utilizzare delle persone che hanno durante la vita maturato un'esperienza proprio sull'ordine pubblico e la sicurezza, quindi è una forma un po' particolare di ronde, ci avvaliamo appunto di persone che per tutta la vita sono occupate di questi fenomeni, quindi hanno una certa anche capacità a vedere, a intravedere dove ci sono delle situazioni anche di pericolo e quindi mettersi subito in contatto con le forze dell'ordine che attualmente sono che sono a Parma. Ovviamente operano tutti, sono non armati, che questa è una delle considerazioni che viene anche fatta nelle eventuali ronde che verranno inserite. Tutti messi, si discute se metterli in un albo speciale vidimato dal prefetto per evitare che entri persone che ne so che hanno precedenti penali, dunque tutte incensurate. Ecco, vista così, lei come la vede la discussione che si sta facendo nel paese? Insomma, molti dicono è un giustizialismo, si ritorna al Far West. Ma secondo me no, nel senso che, ripeto, noi abbiamo scelto questa strada, cioè di utilizzare delle persone che oltre ad essere volontari però hanno un'esperienza maturata, perché una persona che ha fatto tutta la vita il carabiniere o il finanziere, poi anche quando va in pensione ha maturato un'esperienza enorme, e quindi sono dei volontari, però persone che possono benissimo mettersi in contatto con gli attuali carabinieri o forze dell'ordine con la consapevolezza di quello che fanno. Però devo dire che tutto sommato io le vedo abbastanza positivo, perché ho visto anche come la gente ha recepito questa nostra iniziativa in modo molto positivo, anche perché determinano una forma di controllo sociale del territorio che io credo sia fondamentale, anche perché il problema oggi è soprattutto quello della prevenzione di questi crimini, e soprattutto in alcuni luoghi pubblici tipo i parchi, il fatto che ci siano delle persone che tengono animati questi posti, che siano raccordati telefonicamente con le forze dell'ordine, intanto sicuramente riducono la percezione di insicurezza, che è molto alta, percezione di sicurezza poi che si riduce anche con altri sì. interventi, maggiore illuminazione nelle zone pubbliche, recinzioni, cose di questo genere, animazione culturale delle vie. Noi a Parma abbiamo, soprattutto nei periodi che vanno dalla primavera, abbiamo tantissime iniziative di animazione culturale, insomma, che portano i cittadini nelle strade, e quindi questo è il maggior presidio ed è il maggior antidoto contro l'insicurezza, la percezione di insicurezza. Però io credo che questa forma, insomma, sicuramente possa aiutare. Ripeto, noi abbiamo scelto di interpretarla in questo modo, utilizzando delle persone che hanno però maturato delle esperienze, perché ci sembrava il modo migliore. Devo dire che la cosa ha funzionato, perché è in funzione ormai da 7-8 mesi. Sono 18 carabinieri che sono in due parchi della città e sono 15 finanzieri, dato quest'anno sono anche aumentati e sono anche serviti per esempio per prevenire alcuni fenomeni tipo di dispaccio in alcuni parchi della città, aiutando proprio, cioè avvisando ovviamente le forze dell'ordine. Sì. Mi faccio andare a Verona, dove trovo il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura. Comandante, buongiorno. Buongiorno. Anche a Verona ci sono le ronde, non sono le cosiddette ronde padane che erano partite, no? Una cosa diversa, mi sembra di poter dire, anche sì. per un suo intervento come consigliere con il sindaco Tosi. Sì, il sindaco al primo posto tra i suoi obiettivi il discorso della sicurezza. Il termine ronde ricorda qualcosa di negativo. Quello che noi abbiamo sviluppato a Verona è un discorso di assistenza civica a disposizione della Polizia Municipale, in principal modo, che le governa queste pattuglie sul territorio. Sono pattuglie di volontari, anche in questo caso, come a Parma, abbiamo stipulato delle convenzioni. Abbiamo qualcosa di più rispetto al fatto che loro ci devono dare anche dei report sull'attività che svolgono e soprattutto, oltre ad avere anche noi degli appartenenti, già appartenenti alle forze dell'ordine, abbiamo delle associazioni che conoscono molto bene il territorio e che, ripeto, non segnalano solo fenomeni legati alla criminalità, ma segnalano anche delle situazioni cosiddette di piccole cose, no? Dal lampione rotto piuttosto alla strada sporca, che spesso crea quella situazione di insicurezza, sì, di percezione, che poi va a cascata a dire che la città è insicura. Però c'è da dire, comandante, che per esempio molti sindacati delle forze dell'ordine, molti sindacati di polizia dicono: ma date più soldi a noi, date le più volanti, assumiamo più agenti, perché ricorrere a questo sistema, che voglio dire, di controllo civile, di controllo civico, non armati, incensurati, liberi cittadini, però perché non proseguire la via più semplice? Sì, io infatti aggiungerei anche, diamo anche più poteri alla polizia locale, che oggi non è inserita nel contesto delle forze dell'ordine. C'è un disegno di legge in discussione proprio in queste settimane al Parlamento, ci sono tante cose che possono essere migliorate, la polizia locale potrebbe anche essere meglio sfruttata. Per quanto riguarda i problemi che segnalano i sindacati, problemi ci sono, sicuramente il problema della sicurezza oggi nelle città viene vissuto in ogni realtà con un allarme diverso, queste attività che vengono svolte attraverso gli assistenti civici vanno però nella direzione del cosiddetto sicurezza, sì, partecipata, sicurezza condivisa. Oggi i cittadini possono essere delle vedette sul territorio. A proposito di vedette, Mauro Merli, buongiorno. Buongiorno. Responsabile dell'associazione La Cancellata, che è un quartiere di Verona. Sì. Lei che fa? Lei va nelle strade, insomma, lei con altri? Sì, esatto. Noi di sera giriamo per le strade, ma specialmente seguiamo molto bene le aree verdi, in maniera di fornire determinati aiuti alle persone che usufruiscono di queste aree verdi, di questi piste ciclabili, di queste zone, insomma. Cioè, avvisate le forze dell'ordine se c'è qualcosa che non va, che vedete? Penso che ci sia stato tanto parlato di queste ronde, che non è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è quello di segnalare non solo se c'è qualche problema di qualche persona che non si comporta secondo le regole, ma addirittura il nostro compito è anche quello di segnalare, non so, quel lampione che non funziona, quella buca nella strada. Cioè, non è una sorveglianza che noi facciamo. Per conto mio è errato continuare a confonderci con determinate ronde. Qui non è determinate, non si parla di ronde. Quali determinate? Cioè, ultimamente si sta parlando molto di ronde che controllano durante la notte, che controllano il territorio come se fossero i Rambo di turno. Noi dobbiamo solamente fare un'opera di, diciamo, come ha detto il comandante, di vedetta. Cioè, noi controlliamo in definitiva che tutto vada come le regole. Mm. E avete mai dovuto fronteggiare, che ne so, alzare le mani, insomma, fronteggiare qualcuno, qualche situazione un po'... Assolutamente. Uno, perché noi non siamo, proprio non ce l'abbiamo come caratteristica né di controbattere con altre persone, né proprio di agire malamente. Addirittura le posso dire che noi, il nostro rapporto con i cittadini è quello di dialogo, di sentire effettivamente la loro tranquillità, perché solo nel vedere la casacca gialla che noi abbiamo, cioè la gente si sente più tranquilla. Presidiare un po' il territorio. Insomma, io vi ringrazio tutti, sia lei sia il comandante della Polizia Municipale di Verona, Luigi Altamura, il sindaco di Parma, Pietro Vignali, che di centrodestra, non l'ho detto, il Popolo della Libertà. Staremo a vedere se oggi il Consiglio dei Ministri inserirà il decreto oppure rimarrà nell'iter parlamentare. 24 mattino. Le 8:47 minuti. Come sapete, di recente nel Parlamento è stata approvata la nuova legge sulle elezioni europee, che prevede uno sbarramento al 4%. Chi non raggiunge questa soglia non potrà eleggere rappresentanti al Parlamento europeo. Per ottenere i rimborsi elettorali invece la soglia non sarà del 4%, non sarà diciamo la condizione sine qua non quella di aver rappresentanti in Parlamento, perché la soglia è stata abbassata al 2% per via di un emendamento che è stato approvato ieri, 254 i votanti al Senato, 252 a favore, 2 astenuti, l'astensione equivale a un no al Senato, erano 2 radicali, tutti gli altri a favore. L'emendamento era firmato, primo firmatario senatore Vincenzo Vita e poi Paolo Nerozzi, entrambi del PD. Vincenzo Vita, buongiorno. Buongiorno. Senatore, buongiorno. C'è anche Sergio Rizzo del Corriere della Sera, buongiorno, coautore della Casta. E tra l'altro, Sergio, benvenuto. Gian Antonio Stella, oggi l'altro autore della Casta, è molto duro. Partiti, leggina antisbarramento, soldi a chi ha il 2%. Insomma, parla di meno male che promettevano un taglio ai privilegi. Finisce così l'articolo di Stella. Allora, senatore Vita, ci spieghi e ci si giustifichi il fatto che non è un ritorno della casta questo abbassamento. Guardi, intanto un saluto davvero anche agli autori di uno dei più bei libri di questi ultimi anni, e lo dico senza nessuna retorica. No, in verità questo emendamento era nato in un corpo di emendamenti che avevano tutt'altra finalità, si parlava anche della diminuzione del numero delle firme per presentarsi, tutto questo perché qualcuno di noi, diciamo un po' della sinistra, insomma, quella rimasta nel PD, però in contatto con quella che è rimasta fuori, che non ha una rappresentanza in Parlamento, ha un po' dato testimonianza di un'esigenza, cioè essendo questa legge con lo sbarramento del 4%, entrata in scena proprio alla fine, quindi a ridosso della scadenza elettorale, ovviamente tutto questo rende impervio per chi vuole accedervi, vuole fare la campagna elettorale e poter partecipare. Tra l'altro voglio anche chiarire che questa, me ne sono informato prima con Paolo Nerozzi, onde evitare, come dire, rischi di questo tipo di spreco, che il fondo previsto dalla legge, la 515, è integro, cioè quello è. Quindi c'è solo una ripartizione diversa, prenderanno di meno i partiti più grandi, non è che aumentano le spese quelle sono. Questo è un aspetto interessante da ribadire, cioè il fondo totale è lo stesso, si toglie un po' i partiti più che prendono di più e si dà per dare. Infatti sa come l'ha definita oggi Libero? Una vera mutua della casta, un vero intervento di welfare della casta politica, Vita. In tutta sincerità, e lo dico proprio senza nessuna questione, diciamo, diplomatica, quando abbiamo fatto questo emendamento, lungi dal pensare tra l'altro che poi passasse, l'avevamo fatto con un ragionamento molto specifico, rivolto, ripeto, alla sinistra che sta fuori dal Parlamento, ormai prossima a una scadenza cui ovviamente si prepara con difficoltà, con lo sbarramento, tra l'altro del 4%, quindi abbiamo immaginato di rendere un aiutarli, po' più agevole la vita per queste aiutarli, insomma, aiutare i partiti. Sì, ma capisco, guardi, tutta la polemica è incomprensibile. Io poi devo dire anche la verità, essendo stato un estimatore ante litteram, come sa il nostro carissimo interlocutore che saluto, di questa polemica sugli sprechi, quindi non mi sento in questo caso, non voglio essere in colpa, perché l'origine di questo emendamento mi ha stupito, questo sì, che passasse, perché io mi ero fatto ormai l'idea. E perché una settimana fa Sposetti aveva messo l'1% e l'hanno bocciato emendamento. Non solo, ma a parte l'1% che mi sembrava obiettivamente troppo, perché 2% è già una soglia relativamente, insomma, considerando che non c'era prima una soglia, ora c'è il 4%, benissimo, il 2% era una soglia comunque ragionevole, no, ma intendo dire che in commissione affari costituzionali era stato cortesemente respinto. Sì, ecco. Sì. Io in verità, come tanti emendamenti che ogni tanto presento, che vengono cortesemente respinti, penso ad alcuni più antichi sulla televisione, insomma, vi ero fatto ormai un po' il callo, invece no, mi faccia andare una testimonianza. Poi con mia somma, devo dire la verità, giuro, con insomma sorpresa, c'è stata l'interruzione dei lavori l'altro ieri sera e poi è il passato. Relatore Malan mi ha detto ma guarda che stiamo valutando di accoglierlo, io sono un po' caduto dalle nuvole e poi infatti è passato, ma l'intenzione, vi assicuro, lo dico senza proprio nessuna bugia, era esattamente quella di dare un sostegno, non nel senso la muta, un sostegno a formazioni politiche che oggi, pur contando in Italia, e spero che contino ancora, in Europa, non hanno in Parlamento. Sergio Rizzo, che cos'è? È stata una difesa buona? Qualcuno ci scrive non è il ritorno della casta, perché la casta non si è mai limitata, non è mai finita. Che dire, il fatto che il fondo totale rimane uguale è una buona giustificazione a dire non è una difesa della casta, ma un aiuto ai partiti che avranno poca rappresentanza? Ma secondo me il problema è proprio quello. La prima cosa che ha fatto Zapatero quando è scoppiata la crisi finanziaria, che ha fatto il Parlamento spagnolo, è stato quello di tagliare del 10 o del 12% i finanziamenti ai partiti, perché il messaggio che hanno voluto dare al Paese era il seguente, cioè se c'è da aggiungere un buco alla cinghia, per primi lo aggiungiamo noi, perché siamo credibili poi quando dobbiamo chiedere i sacrifici al Paese. Ecco, naturalmente in Italia questo non solo non è stato fatto, ma ci si è ben guardati dallo sfiorare sia pur minimamente l'argomento. Poi su questa storia del tetto al 2%, ma non lo so, come dire, ci sono tutte le giustificazioni. Io diciamo capisco, come dire, le argomentazioni del senatore Vita, per carità, alcune cose sono anche, come dire, plausibili, però mi vengono due domande da fargli. La prima è: perché al 2%? La legge nazionale è all'1%, no, se non sbaglio, quindi già lì c'è una contraddizione. Se volevano uniformare lo dovevano mettere all'1%. È l'ambocciato all'1%. È logico, no? Perché il 2%? La seconda cosa è, ma come, non si era detto che bisognava semplificare il sistema politico, che bisognava, diciamo, ridurre il numero dei partitini, che bisognava andare per accorpamenti grandi, no? Che si confrontassero un bipolarismo maturo. In fin dei conti il PD è nato proprio su questo concetto. E ora il PD stesso torna indietro, cercando di far rinascere... Questa è un'ottima domanda, senatore Vita, esatto, la semplificazione, poi visto che stanno fuori li aiutiamo economicamente, perché sennò non ce la fanno. Guardi, obiezioni molto ragionevoli, io poi, come insomma chi può un po' conoscermi sa, io non sono uno scatenato e non amo mai litigare, anzi se c'è una critica ne prendo atto con molta serenità. No, molto semplice. Rispondo, 2% e non 1% proprio per evitare una frammentazione eccessiva, perché il 2% è una soglia alle europee credibile, anche le formazioni politiche più piccole si devono essere messi in testa che con lo 0,9, 0,8 quanto bastava prima per avere un dato europeo non si può continuare ad andare avanti. L'altra questione, io sono molto d'accordo con una logica, una cultura bipolare, non necessariamente bipartitica, ma certo bipolare. Tuttavia, quindi... qui si tratta, no, di una considerazione che mi piace fare. Qui si sono cambiate, e adesso non do giudizi generali, le regole un po' in corsa, perché la scadenza elettorale è prossima. Tutto questo, personalmente, non avrei mai pensato, penso neanche il mio collega Nerozzi, a pensare, insomma, non avrei pensato di pensare a una cosa simile, se la discussione sulla soglia fosse stata fatta, che ne so, 6 mesi fa, 4 mesi fa, quando era più chiaro il punto di partenza. Ah, dice adesso ora che è stato... d'opero, sì, poi io lo dico, guardate, figuriamoci, facendo attività istituzionale bisogna avere rapporti con l'esterno, dico anche la verità, è tutta la verità. Questa ipotesi emendativa, peraltro sono adulto e consapevole, l'ho accolta con piacere, non è che l'abbia fatto perché così per fare un favore, no, mi è stata, c'è stata richiesta da un'area politica, la sinistra, che purtroppo oggi è quella che sta fuori. Quindi, insomma, sinceramente non ho pensato alla casta, io poi sono d'accordissimo sulla riduzione degli sprechi, su ridurre gli stipendi dei parlamentari, mettere le pensioni nel sistema contributivo. Senatore, sono stato un lettore tra i primi, e lo Sarizzo del libro. Sì, no, lo so, senatore, io no, ho cinque secondi, ma devo concludere. No, mi dica un sì o no, ma lei, insomma, è qui un po' giustificato. Non è che si vergogna dell'emendamento, perché ha detto, non sapevo se passava, quello è il colle cronaca. Sì, vabbè. Pensavo che fosse una testimonianza. No, non mi vergogno. Non mi vergogno. E sono qui a questi microfoni. Certo, non ho mai fatto. Per testimoniare il fatto che si è fatta un'iniziativa che credo sia stata giusta. Va bene, devo fermarmi qui. Grazie a Sergio Rizzo, al senatore Vincenzo Vita del Partito Democratico. Tra poco Ferrara, che parla del Partito Democratico, di altre vicissitudini. Dopo il GR24 noi ci ritroviamo lunedì mattina.